Il satiro e il passeggero da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Senza tappeto, tavolo e divano, in fondo ad una selvatica grotta, si trasse un satiro a desinar con la scodella in mano. Accanto i figli e la diletta moglie, sul musco anche sedevano e lieti masticavano. Semplicità l'appetito non toglie. Colto dall'acqua come il ciel la manda, un passeggero ospizio cercò nell'antro e subito fu invitato a gustar della vivanda. La cortesia tornò molto gradita all'uom che, freddo ed umido, per riscaldarsi l'unghie, col fiato si soffiò sopra le dita. E quando fu servito il desinare, ancor sopra ci soffia. Meravigliato il satiro gli dimandò: «Che giova ora il soffiare?» «Soffiando, come ho fatto, scaldo in pria le dita e quindi il soffio per raffreddare il liquido», disse il satiro allor. «Caro, va via, a me sembra una cosa assai barocca, e tolga il ciel ch'io voglia dormir con un che soffia il caldo e il freddo dalla stessa bocca». Fine della favola Il satiro e il passeggero. Questa registrazione è di dominio pubblico.